L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta in cui partiremo dal vetro per poi finire sull'Expo e la cooperazione italiana all'estero. Un salto, ma insomma ci arriveremo con ordine. Due aspetti affrontiamo per quel che riguarda il vetro, che come saprete senz'altro è il contenitore più rispettoso dell'ambiente, soprattutto se lo ricicliamo, perché è immortale, per così dire, perché può nascere dalle sue ceneri ogni volta con immutate proprietà. Dicevamo, vogliamo parlare di due aspetti. Il primo è quello dei produttori di contenitori in vetro e lo faremo a partire da una ricerca commissionata da FEVE, che è la Federazione Europea dei Produttori dei Contenitori in Vetro, a Ernst & Young, che ha scandagliato anche il contributo dell'industria dei contenitori in vetro in Italia in termini sociali, economici ed ambientali. La ricerca è stata presentata da Assovetro in Italia, che è l'associazione degli industriali del vetro aderente a Confindustria, e quella che ci interessa di più è la questione ovviamente ambientale, in particolar modo gli 89 milioni di euro l'anno di investimenti, di cui il 70% in chiave ambientale. Seconda direttrice sulla quale ci muoveremo, ma questo sarà tra qualche minuto, è quella del recupero, della raccolta del vetro e del suo riciclo. Allora, quindi prima passiamo dai produttori di Assovetro con l'intervista a Massimo Noviello, che è il presidente, poi parleremo anche di Coreve, che è il consorzio della raccolta del vetro in Italia. Sentiamo Noviello prima. All'interno dell'industria del vetro sono tre gli elementi più importanti di competitività: un corretto utilizzo dell'energia, una forza lavoro capace e professionale e un mantenimento di un adeguato livello di efficienza produttiva. Per riuscire a mantenere tutto questo c'è bisogno di forni che funzionino bene. Noi utilizziamo la gran parte dell'energia all'interno dei nostri forni fusori e gli investimenti quindi vanno soprattutto nei forni fusori. Il forno fusorio è dove si produce il vetro, si forma il vetro. C'è bisogno di arrivare a una temperatura molto elevata, 1400-1500 gradi, e quindi è lì che c'è il massimo sforzo dell'industria del vetro, è lì che si consuma l'energia, è lì che si formano le emissioni nell'atmosfera. E quindi è su questi aspetti che tutta l'industria del vetro sta lavorando molto. Senta, il flusso di questi investimenti non è quindi diminuito in questi anni di crisi, fondamentalmente, diciamo? No. L'industria del vetro si caratterizza proprio, dicevamo prima, da un'esigenza strutturale di mantenere alta l'efficienza produttiva per evitare di dover poi rischiare di competere ancora di più con le economie dell'est dell'Europa. Quindi abbiamo dovuto mantenere per forza livelli elevati di investimenti all'interno delle nostre fabbriche. Garantiamo la qualità, insomma, alle fasce alte del livello dell'industria alimentare, che è sicuramente molto esigente. Dunque, negli imballaggi spesso si vedono, come nell'andamento della vendita degli imballaggi, si vede la ripresa o meno di un momento economico, diciamo. Si vede qualcosa di buono? Possiamo dare qualche buona notizia agli ascoltatori, insomma, dal vostro punto di vista? Direi di sì. Direi che stiamo vedendo negli ultimi semestri qualche lieve segnale di miglioramento. Ripeto, l'industria alimentare ha sofferto anche lei in questi anni e noi siamo molto prossimi evidentemente all'industria alimentare e stiamo vedendo comunque dei lievi segnali di miglioramento in questo senso. Siamo vicini, insomma, all'eccellenza del mondo alimentare italiano e quindi se non vedessimo queste indicazioni evidentemente le cose volgerebbero per il peggio. Credo che invece stiano andando davvero in senso positivo. Finalmente, insomma, sono anni che ci sentiamo dire il contrario. Quindi. Senta, ma il vetro riciclato quanto contribuisce alla vostra attività, insomma? Stavamo dicendo, allora, da un punto di vista dell'industria noi abbiamo esigenza di dare la massima efficienza produttiva. La massima efficienza produttiva la diamo, dicevamo prima, con un utilizzo del forno e dei consumi nel forno a livello ottimale. Riusciamo a farlo soprattutto anche grazie all'utilizzo del rottame di vetro. Noi abbiamo nell'industria del vetro un tasso di riciclo che è circa il 70%, oltre il 70% della materia prima immessa nel forno. La raccolta, so che appunto in alcune regioni va molto bene, in altre meno. Si vede un miglioramento negli anni? Ci sono spazi di miglioramento. Abbiamo degli indici di raccolta del vetro che sono molto differenti da area geografica ad area geografica. Il nord Italia, che ha cominciato da tanti anni e è arrivato a un livello comparabile quasi con le eccellenze europee, il centro e il sud hanno ancora margini di miglioramento nella raccolta differenziata. Dobbiamo andare su due canali quando si parla del miglioramento della raccolta differenziata. C'è quello quantitativo, cui abbiamo appena accennato, cioè quanti chili per abitante riusciamo a raccogliere, e abbiamo detto c'è questa grande differenza tra il nord, il centro e il sud. Ma generalmente, e vale dovunque, dobbiamo riuscire anche a riciclare meglio. È importante che passi il messaggio che nella cassonetta del vetro deve andarci solo il vetro. Il cristallo, ad esempio, non è qualcosa che possiamo mettere nei nostri forni, altrimenti andrebbe a deteriorare la qualità del riciclo. Andiamo a parlare proprio di raccolta e riciclo nel sud Italia, che è l'area in cui va più promosso il riciclo. Coreve, che come dicevamo è il consorzio per il recupero del vetro, il mese scorso ha lanciato una campagna pubblicitaria specifica per il sud. Il perché e le specifiche, diciamo, le abbiamo chieste a Franco Grisan, che è il presidente di Coreve. Ora, il sud ricicla circa il 21% del materiale che viene raccolto, ed ha un tasso di incremento che è buono. Però ci sono delle situazioni molto variegate al sud, perché ci sono alcune regioni che sono virtuose e stanno andando a livelli molto buoni, altre che invece sono indietro e fanno fatica. Allora, il nostro compito istituzionale, Coreve, è di sviluppare la raccolta differenziata in Italia e svilupparla in modo tale che il materiale raccolto sia riciclabile. Il materiale riciclabile, se la raccolta viene fatta bene e quindi se c'è un comportamento corretto da parte del cittadino e un'attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi noi abbiamo detto che il Sud nel suo complesso ricicla circa 19 kg per abitante quest'anno, 18 lo scorso anno. Contro una media invece di che contro tipo? Una media nazionale che è di circa il 29 l'anno scorso e 30 quest'anno. E contro il nord, che è a livello circa di 40 kg per abitante, e il centro, che è circa 25 kg per abitante. Quindi il sud è la regione che deve essere curata di più. Noi abbiamo fatto una ricerca su quelli che sono le conoscenze degli assessori all'ambiente e che cosa sanno di riciclo e come si deve fare, eccetera. Ci siamo resi conto che in realtà spesso non hanno le idee chiare, per cui dobbiamo operare su due fronti: da una parte sulla pubblica amministrazione, in modo tale da sensibilizzarla, da informarla e da orientarla verso la raccolta differenziata, che fra l'altro è anche conveniente per il singolo assessore all'ambiente, il singolo comune, perché aumentando la raccolta differenziata aumenta i benefici economici di quel comune. Per esempio, un comune da 100.000 abitanti, se passa da circa 13 kg per abitante, che è grosso modo il livello della Puglia in questo momento, ai 29 kg per abitante, che è il livello della città di Salerno, che è è una città del sud e che però ha fatto molto bene e che è perfettamente sulla media nazionale, e il beneficio economico per il comune sarebbero 370.000 euro all'anno, e quindi è un qualche cosa che credo che sia interessante per un amministratore comunale. Ci sono anche altre informazioni che abbiamo dato, tipo a che cosa serve fare la raccolta differenziata sul piano nazionale, e quindi il beneficio sul piano nazionale, e che cosa, come è stata organizzata in comuni virtuosi e che cosa deve fare il cittadino per farla bene. Quindi vedevo quello spot con Mario Tozzi che dice solo vasetto, no? Bottiglia vasetto, ad esempio. Sì. Questa informazione anche proprio pratica. È un'informazione pratica perché spesso il consumatore, volendo essere bravo, vede del materiale che è simile al vetro e quindi lo mescola, per esempio il cristallo, per esempio Pyrex, ma anche piatti di ceramica o tazzinica, perché viene considerato un materiale affine. Mi preoccupava anche la parte in cui lei diceva che non solo avete trovato i cittadini impreparati, ma anche molti amministratori. E questo è, diciamo, nel 2015 ormai è preoccupante. Ma guardi, noi l'anno scorso noi facciamo anche delle iniziative per i giovani. L'anno scorso uno dei vincitori di questo concorso di Assovetro Coreve è stata la scuola di Bagheria. Bagheria in Sicilia, la Sicilia è una regione che ricicla pochi materiali, ricicla 6,3 kg per abitante, quindi è molto lontana dalla media. Allora, questi bambini hanno fatto un filmetto che noi abbiamo presentato anche nelle riunioni che abbiamo fatto con gli assessori, dove hanno fatto vedere che il vetro ha certe caratteristiche, che il vetro è importante da riciclare perché è importante da riciclare, e poi è messo in evidenza che il riciclo è importante, però non viene fatto perché non c'è l'organizzazione. In questo caso è la cittadinanza è più avanti dell'amministratore. Avanti, ecco. Esatto. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Dopo aver parlato di vetro, produzione e raccolta nella prima parte della trasmissione, ora parliamo di Expo, ma in una declinazione nuova, cioè parliamo di cooperazione internazionale ed Expo. L'Italia, che tante volte è indietro in patria, riesce infatti a presentare e portare avanti progetti straordinari all'estero, progetti di solidarietà e sostenibilità che saranno presentati giustamente alla Esposizione Internazionale di Milano, che ricordiamo inizia il 1 maggio. Abbiamo parlato di questi progetti italiani all'estero con Lapo Pistelli, vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale. Lo abbiamo fatto durante l'Expo delle idee, che era quella gigantesca consultazione di esperti e politici su quelli che dovranno essere i contenuti della manifestazione. In particolare ci si è confrontati sulla Carta di Milano, che è questo patto sul cibo, sulla alimentazione corretta, sostenibile e sicura per tutti, che il governo italiano vorrebbe sottoscrivere con i partecipanti a Expo affinché resti come una traccia, un documento concreto per i posteri della manifestazione. Sentiamo però cosa ci ha detto Lapo Pistelli sui progetti della cooperazione italiana ad Expo e magari con lui commentiamo anche la Carta di Milano. A vari livelli la cooperazione sarà innanzitutto presente, nel senso che abbiamo un calendario di eventi, finora 40, ma cresceranno perché questa è una manifestazione che dura 6 mesi. E non può dunque essere concepita come vado, la visito un giorno, arrivederci e grazie. Ci saranno molte occasioni puntuali, diciamo così, per mandare messaggi legati ovviamente al diritto al cibo e alla sostenibilità, e noi ci siamo impegnati come cooperazione a farlo a vari livelli, quindi ci saranno grandi eventi, non so, Amartya Sen, commissari europei e ministri, eventi di nicchia di specialisti e anche eventi buoni per famiglie con bambini, quindi eventi più pop. Perché questo è un messaggio che deve servire a raggiungere vari destinatari. Secondo, abbiamo un certo numero di nostri progetti, e ne siamo molto orgogliosi, non avevamo facilitazioni, che hanno vinto, diciamo così, tra i 785 progetti presentati fra le migliori pratiche al mondo in Feeding the Knowledge, quindi ben 5 dei progetti, 5 sui 18 progetti premiati sono progetti della cooperazione italiana o in partnership con la cooperazione italiana. Avremo una presenza diffusa dentro Expo, perché collaboreremo sia col settore delle ONG e della società civile a Cascina Triulza, sia con numerosi paesi che hanno sia loro attività e loro padiglioni o partecipano ai cluster tematici del cibo. Insomma, deve essere, come dire, una filigrana attraverso la quale leggere l'intera manifestazione. Abbiamo rifiutato di esserci come cooperazione italiana e abbiamo animato un po' l'intero spazio. Quindi l'idea è di sviluppare una serie di dibattiti e anche di far conoscere questa eccellenza italiana, perché comunque c'è, se abbiamo vinto tutti questi progetti c'è un'eccellenza. Sì, ecco, l'importante è capire che rispetto a 2 anni fa, dove sembrava che l'eccellenza italiana fosse soltanto l'eccellenza di alcune industrie o dell'agroindustria italiana, sia qualcosa di più, cioè l'Italia non è soltanto uno showcase per le migliori esperienze sul cibo che possiamo produrre, ma diventa un'occasione per mandare un messaggio nell'anno in cui ridefiniamo l'agenda dello sviluppo post 2015 a livello Nazioni Unite. Cioè non esistono altre piattaforme al mondo in questo anno in cui, oltre ai 3 appuntamenti canonici, la conferenza che ci sarà da Addis Abeba sulla finanza per lo sviluppo, la conferenza di Parigi sul clima a fine anno e l'appuntamento atteso ormai da 15 anni a New York che adotterà l'agenda dello sviluppo post 2015, fuori da questi 3 appuntamenti istituzionali non esiste nessun altro appuntamento al mondo in cui più di 140 paesi siano insieme per 6 mesi e 3 di questi mesi coincidono col negoziato finale. Quindi per noi è una straordinaria occasione politica per non soltanto diffondere consapevolezza nel visitatore normale, che non viene soltanto a vedere, non so, buon caffè, buona cioccolata, buona pasta e qualche cos'altro, ma capire qual è il dibattito sul diritto al cibo e un modello sostenibile. E per noi è una grande occasione per avere tutti questi protagonisti in Italia in quei mesi. Lei pensi che in quei 6 mesi ci saranno 101 paesi che celebreranno la loro giornata nazionale, come per noi è il 2 giugno, ad Expo. Quindi ci aspettiamo qualcosa come 700 visite di Stato fra ministri e primi ministri. Quale occasione diplomatica irripetibile per l'Italia per dare questo contributo? Ma in Italia questo dibattito è vivo, questo che voi state cercando di animare a livello internazionale? Ma c'è una società civile, diciamo, specializzata che non soltanto lo conosce ma ci aiuta. Devo dire, questo Expo delle idee è straordinario, a parte bellissimo a vedersi, in radio non si può far vedere, ma bellissimo a vedersi. Con queste torri straordinarie di Anselm Kiefer in questo hangar della Bicocca. Ma la cosa interessante è che qui c'è il sistema Italia, cioè qui non ci sono soltanto le istituzioni. Qua si va da Carlin Petrini a Carlo Cracco, si va dalle ONG internazionali agli specialisti dell'alimentazione, si va dai territori alle università. È il sistema Italia che si sta confrontando su questa carta di Milano. Ecco. Non solo le imprese, come si era temuto all'inizio. Esattamente, cioè la curvatura è stata abbastanza cambiata e io credo che nell'entusiasmo di collaborare creativamente, anche in modo un po' caotico a dire il vero finora, ma di collaborare a questa carta di Milano, c'è l'idea del paese di sentirsi sistema, dove c'è spazio per tutti per dare questo contributo. Io spero che anche nel pubblico che verrà ad Expo ci sarà questo stesso tipo di composizione, quindi non soltanto chi passa una bella giornata e vede meravigliosi padiglioni, architettura innovativa, roba del genere, ma qualcosa di più, cioè vedrà anche i contenuti che vengono fuori da Expo. Su questo mi pare che siamo sulla strada giusta. Quindi anche l'Italia, non solo per verso l'estero, ma anche in Italia c'è contenuto, ecco. Beh, noi sì, c'è contenuto e ci aspettiamo anche che l'Italia, in termini non soltanto di offerta di dibattito, quella ce ne sarà tanta, ma di domanda di dibattito, in fondo se facciamo una stima di 20 milioni di visitatori, pensiamo che un po' più della metà siano italiani, vengano non soltanto, ripeto, a passare una bella giornata da solo in famiglia in uno spazio assolutamente nuovo, tecnologicamente interessante, intrigante, ma si portino a casa qualche bel contenuto sulle vari aspetti di un modello di agricoltura sostenibile, sui vari aspetti del diritto al cibo, che è fatto di chi ce n'ha troppo e chi ce n'ha poco. Diciamo delle buone pratiche che noi diffondiamo fuori quando come cooperazione ci muoviamo oltre confine, che talvolta magari non sono conosciute a casa nostra. Le chiedo in conclusione, visto che io mi occupo di una trasmissione che riguarda proprio temi di sostenibilità ambientale, sì, quindi molto vicina, diciamo, a quello che sarà, che dovrebbe essere l'Expo, ci auguriamo che diventi l'Expo, qualche esempio di cooperazione italiana su questi settori, giusto per capire cosa facciamo. Ma guardi, due cose che vengono premiate. Siete soddisfatti? No, noi facciamo di tutto, quindi potrebbe essere uno speciale questa domanda. Mi limito a dire che i due progetti che abbiamo premiati, e che sono premiati in due delle principali categorie, uno sono sulle filiere di agricoltura sostenibile nell'Oromia in Etiopia, parliamo di un paese che molti conoscono magari per le foto di Salgado nelle sue parti più remote, ma è uno dei grandi giganti africani da 90 milioni di abitanti, e l'altro è sul caffè, dove il nostro tema è stato quello di far nascere mercati locali a filiera corta, sostenere l'agricoltura a conduzione familiare di qualità, collegarli ai mercati locali e collegare l'uso delle eccedenze all'esportazione in altre parti del mondo. Tutto questo fatto, tutto questo tipo di progetti sono progetti che ci consentono a di sostenere l'economia locale dove interveniamo, due, di sostenerla in modo giusto, cioè con pratiche, ripeto, sostenibili e fondate sull'agricoltura familiare, tre, di collegarle alla grande catena del valore internazionale. Quindi è un messaggio che va a vari livelli. Su questo noi siamo bravini, e giusto ogni tanto ce lo diciamo fra di noi. Non siamo bravi a fare tutto, ma alcune cose che facciamo le facciamo bene. E sui modelli di agricoltura sostenibile, di sostegno alle filiere corte, di sostegno all'agricoltura fondata sui piccoli imprenditori e sulle famiglie, l'Italia è un punto di riferimento in gran parte del mondo, in Africa, in Asia e in America Latina. Questa esperienza potrebbe in un certo senso tornare in patria, perché forse noi ne abbiamo un pochino bisogno, abbiamo perso di vista alcune... No, o forse dovremmo ricalibrare alcuni Abbiamo dei fenomeni di ritorno. Ovviamente l'Italia, per ragioni di estensione e di composizione della sua struttura produttiva, non è un paese che fa agricoltura estensiva, o meglio, quella che noi consideriamo agricoltura estensiva, se paragonata appunto ad altri paesi, sono piccole proporzioni. Ma abbiamo riscoperto negli ultimi anni la qualità e le filiere corte, e su quello abbiamo inventato un sistema che produce delle eccellenze straordinarie, anche talvolta se sono numeri piccoli, e occupa delle fasce di qualità estremamente alta. Non a caso il cibo italiano lo si imita, insomma, non si, cos'è che si imita? Ciò che è eccellente, non si imita certo ciò che è scadente. E la cosa che trovo interessante, e questo è un po' un messaggio che manda anche Carlin Petrini e altre voci che si ascoltano qui stamani, è che mentre in una cultura antica, veramente antica, ma antica in senso non di apprezzamento sapienziale, antica nel senso di demodé, la terra e il valore del cibo era considerato una roba da società non sviluppata, stiamo riscoprendo il valore del cibo e la cultura che sta nella terra. E questo è importante, perché se lo fa un paese con molte potenzialità e con molta cultura, questa riscoperta diventa una riscoperta bella, la riscoperta di tradizioni, di sapori, di valori, valori che possono essere consumati sulla nostra tavola, ma anche portati fuori nel mercato mondiale. La ringrazio molto, allora ci risentiamo, ci rivediamo all'Expo con la carta di Milano fatta e firmata. Soprattutto magari la carta di Milano ce la leggeremo a Milano, ma speriamo che lasci una bella eredità dopo Milano, negli anni a venire. E questo era Lapo Pistelli, viceministro degli esteri e della cooperazione internazionale italiana. Sempre in tema di Expo, ma in un altro ambito, mi fa piacere segnalare che la settima edizione dei Luoghi del Cuore FAI, Fondo Ambiente Italiano, che censisce i luoghi italiani più belli da tutelare e da non dimenticare, ha istituito una sezione quest'anno per i luoghi del cuore legati alla produzione e alla trasformazione alimentare. Ecco, il 2015 ha visto il successo delle saline della laguna Lo Stagnone a Marsala, provincia di Trapani, al primo posto della classifica speciale con oltre 14.000 punti. Un luogo di grandissima e straordinaria bellezza, la laguna è caratterizzata dalla presenza di vasche artificiali per l'estrazione del sale, create sulla costa in tempi antichissimi, con metodi che risalgono alla civiltà fenicia e ancora funzionanti. Quindi con questa notizia chiudiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Per scriverci, vi ricordo, l'altro pianeta è radio24.it. da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.